Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Mio papà fu fatto prigioniero dai tedeschi in Albania dopo l'8 settembre, e lui e i suoi commilitoni furono prima trasportati in Serbia, un campo di lavoro in Serbia, e poi a causa del ritiro dei tedeschi, anche risalendo il Danubio, arrivarono fino in Cecoslovacchia, la Boemia. Lì erano in un campo di lavoro, facevano un aeroporto, sbancavano terra e un aeroporto militare per i tedeschi. Una volta arrivati in Cecoslovacchia, la particolarità del campo in Cecoslovacchia, in Boemia, vicino a Praga, fino a Radeskralove, una piccola cittadina di Lipciani, la particolarità era che il campo era relativamente aperto. Ricordate, noi abbiamo dedicato varie puntate alla storia sconosciuta, pochissimo trattata, volutamente e vigliaccamente molte volte nascosta, perché molte volte l'ideologia tende a stendere dei veli sui pezzetti della storia, invece sono importanti per capire nel complesso gli accadimenti, anche più ambigui, anche quelli che ancora sono scritti in maniera cocente sulla carne dei diretti protagonisti. Beh, noi parlammo degli internati militari italiani. Questo è un nome dato dalle autorità tedesche ai soldati italiani che furono catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni immediatamente successivi al cosiddetto armistizio dell'8 settembre del 1943. Soldati che hanno tenuto fede al loro impegno, sono continuati a rimanere, diciamo, fedeli a quello che era il loro giuramento, quindi non hanno accettato di combattere per l'asse e quindi sono diventati prigionieri di guerra, ma per pochissimo, perché poi non hanno avuto nemmeno la dignità di essere chiamati prigionieri di guerra e quindi nemmeno le garanzie date comunque dalla Convenzione di Ginevra sui trattamenti dei prigionieri di guerra. Furono chiamati internati, ma secondo me la pena più grossa, a parte quello che hanno passato e ci hanno raccontato e anche in questa puntata ne racconteremo, è che poi, quando la guerra è finita, quando sono rifatti i racconti, i conti, le valutazioni, gli internati di tutte le categorie che hanno partecipato alla guerra sono quella stata più sconosciuta, meno trattata, e infatti noi per questo abbiamo dedicato varie puntate. Ricordiamo che si parla di 600.000 ufficiali e soldati che sono stati 2 anni chiusi in dei lager e dei quali 40.000 non sono mai tornati a casa, quindi mi sembra che è un fatto importante. Però, ahimè, come dico, la storia la fanno gli uomini e gli uomini poi decidono quali porzioni della storia meritano di avere rilevanza rispetto ad altre. Beh, questa mattina invece sono contento perché riprendiamo l'argomento, perché abbiamo una buona notizia. Oggi proprio è stata data alla stampa l'informazione, è stato trattato l'argomento sugli internati, perché c'è un progetto dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia di creare proprio un museo della memoria per gli internati militari italiani, che dovrebbe essere creato a Roma in via Labicana. Ma la cosa che più mi interessa è che, perché siamo appassionati noi della storia e dei brandelli umanità che rimangono vivi e si trasmettono attraverso gli archivi digitali, attraverso un albo lessico biografico online. Quindi quello che finora è stato abbastanza tenuto nascosto sotto il tappeto potrà essere comunque consultabile da tutti. Siamo in un momento in cui si parla di liberalizzazione, di apertura degli archivi segreti. Beh, questo non è un archivio segreto, è un archivio che è stato un po' nascosto e forse finalmente chi vorrà potrà avere testimonianza di quello che è accaduto. Mio papà era il 1922, fece la Russia, Nicolaesca, no, la battaglia Nicolaesca, tornato in Italia, fu rimandato in Germania a fare l'internato, cioè fu preso in Alto Adige e spedito in Germania. In Germania, in campo di concentramento, alla mattina li facevano uscire. Il dottor Lauro Rossi è consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, l'ANRP. È figlio di un internato militare, è funzionario della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea del Ministero dei Beni e Attività Culturali. Lauro Rossi, buongiorno. Buongiorno. Quindi lei, diciamo, è la persona giusta messa al posto giusto. Lei, Nanni, immagino che abbia lavorato fino a ottenere il risultato di oggi. Ecco, qual è il passo avanti rispetto a tutte le volte che abbiamo parlato di questo problema? Finalmente sarà un luogo concreto e reale della memoria storica di persone che hanno si sono meritate finora l'anonimato più assoluto. Innanzitutto mi devo complimentare con lei, perché nella sua, diciamo, premessa è stato chiarissimo, quindi devo solo aggiungere un paio di cose. La prima è, diciamo, la costruzione che stiamo facendo, questa grande banca dati. Su, lei ha parlato di 600.000, forse sono 650.000 militari internati, e abbiamo già cominciato, l'iniziativa è già partita, e per ora stiamo facendo, diciamo, la parte quella più dolorosa, cioè di quelli che non sono ritornati, cioè dei caduti, di quelli che... Ecco, come ricostruite le storie delle persone che non sono tornate? Attraverso gli archivi, ce ne sono tantissimi in Germania, in Italia, con i quali... Quindi è un lavoro che comunque, se ci fosse stata volontà politica, diciamo, sarebbe stato fatto comunque in questi ultimi 50 anni. Ma guardi, purtroppo il problema dei prigionieri di guerra in tutte le guerre è sempre stato enormemente trascurato, perché il prigioniero è sempre un personaggio scomodo, è sempre un personaggio di... Nella prima guerra mondiale venivano quasi tutti considerati dei traditori, no? 300.000 furono quelli presi dopo Caporetto, e qua, lei pensi che quando tornarono tutti i prigionieri italiani furono messi in quarantena, come se essere interrogati dal tribunale militare. Poi se non venne Nitti a salvarli sarebbero rimasti mesi e mesi un'altra volta. La loro colpa era di non essersi fatti massacrare, questo è fatto. Ma più che altro nella prima guerra mondiale c'era l'idea cadorniana di Cadorna, che appunto si preferiva, diciamo, la prigionia al combattimento, insomma, questa lei poi... Beh sì, le decimazioni, abbiamo fatto cose atroci. Cioè, ecco, la seconda, per fortuna, questo aspetto non c'è stato, perché l'8 settembre è talmente chiaro che cosa è avvenuto, quando il nostro Stato non solo non è mai esistito, ma i nostri rappresentanti sono addirittura fuggiti, no? Badoglio, il re, se ne sono proprio andati dalla loro sede istituzionali, per... Quindi, insomma, è evidente che lì non si poteva parlare di tradimento. Però quando sono tornati questi prigionieri in Italia, tra cui mio padre, non è stato fatto nulla per loro. Hanno dovuto riprendere la loro vita esattamente al punto a cui l'hanno lasciata. Non ha avuto nessun tipo di garanzia, perché per paradosso erano considerati traditori da quelli che hanno aderito alla Repubblica Sociale, ma allo stesso tempo in qualche maniera visti con sospetto anche dai vincitori. Ma più che con sospetto, dava fastidio che in questa Italia che si voleva immediatamente ricostruire apparissero queste figure che potessero in qualche modo chiedere un risarcimento per l'assurdità. Come... O anche ricordare che in Italia si era combattuta una guerra civile a tutti gli effetti. Ma della vita che avevano vissuto, cioè questi sono stati, dopo l'8 settembre, sono stati abbandonati. E chi è qualcuno è riuscito a scappare, ma altri, come mio padre, che stavano in Jugoslavia e in Croazia, sono stati... Ecco, ma esattamente cosa accadrà adesso? Come ricostruirete questo? Allora, adesso accadranno due cose. Innanzitutto attraverso una serie di archivi, quindi di ricerche incrociate tra archivi italiani e archivi tedeschi, riusciremo, anzi siamo già a buon punto, a prendere in mano, diciamo, queste carte, a ricostruire quantomeno, diciamo, il nome, cognome, probabilmente anche con immagini, se riusciamo a trovarle, il reparto di appartenenza e tutto quanto. Ma io posso, diciamo, in questo, se possiede darvi una mano, tutte le volte che ho trattato questo argomento ha sempre chiamato qualcuno che comunque era legato di persona a una vicenda di internato. Quindi mi è sembrato strano, sembra un argomento che non esisteva, campato in aria, di poche persone. Tutte le puntate radiofoniche che abbiamo fatto, c'è stato qualcuno che aveva una storia di internato. Visto che stiamo un po' per chiudere la prima parte, mi devo stringere i tempi. Dottor Michele Montagano, buongiorno. Buongiorno. È il presidente vicario dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, ex ufficiale internato, e quindi lei ha una storia personale da raccontare, quindi... Ancora ci sono i testimoni di questa cosa, non è che è una cosa raccontata solo dai documenti. Forse siamo gli ultimi, oramai siamo rimasti in pochi. Quanti siete rimasti? Quanti vi conoscete ancora? Il numero non lo possiamo dire, ma comunque del gruppo mio che siamo andati a finire in un campo di punizione, eravamo 44, siamo rimasti in due soltanto. Quindi faccia questa proporzione. Quindi diciamo di quelli che sono tornati. Sì, oramai siamo gli ultimi, insomma. Quelli che saranno ancora vivi della Germania sono gli ebrei, quelli che erano ragazzi, gli ebrei che hanno portato, che poi sono cresciuti, quelli rimangono ancora per qualche anno, ma insomma noi abbiamo superato i 90 anni, perché se eravamo in guerra minimo eravamo della classe del 23, quindi praticamente siamo oltre 90 anni, quindi siamo rimasti proprio in poco. Però io ringrazio il Dio. Qual è la cosa peggiore che lei ricorda di questo periodo, che poi da oggi finalmente ci sarà la possibilità che rimarrà almeno nella memoria digitale, vuol dire che rimarrà quasi in eterno rispetto alla nostra vita? Io ringrazio Dio che l'ANRP si è dato da fare per creare questo museo, per cercare di sapere chi sono i morti, quanti sono i morti e tutto, perché è un dovere nostro, insomma, di tramandare i nomi di quelli che ci hanno rimesso la vita per fare quella resistenza. Beh, oltre che i morti noi... che meritano senz'altro la memoria, ma anche capire cosa è successo veramente. A me interessa proprio il fatto, l'atteggiamento, tanto quanto quello che è accaduto durante la prigione, ma mi interessa il momento del vostro ritorno, il reduce che torna, che comunque ha passato 2 anni di lager, e non è uno scherzo, ha visto morire, massacrare, maltrattare i propri compagni, che non hanno nemmeno il diritto di essere chiamati prigionieri di guerra. L'atteggiamento, diciamo, dei propri compatrioti: torni pensando che ti lancino fiori, ti abbracciano, invece sei una presenza imbarazzante. È stata questa l'impressione? Siamo stati ignorati da tutti, i politici, perché non sapevano che cosa pensavamo della politica, perché se non avevamo aderito, se eravamo fascisti o non eravamo fascisti e tutto. Però siamo stati anche noi quelli che non abbiamo parlato, ci siamo chiusi nel silenzio quasi tutti. Io, tutti quelli che conosco io, che sono stati con me, tutti quanti, anche tornando in famiglia, abbiamo cercato di raccontare quanto meno possibile. Questo è un po' il problema, quello che ho registrato anch'io nelle trasmissioni che abbiamo parlato, che anche familiari, così, mio padre, sappiamo che ha fatto questa cosa, che ha passato questi anni terribili, ma ci ha sempre raccontato pochissimo. Ci fermiamo un istante, informazione del traffico, poi riprendiamo, che il tema ancora vale la pena di essere sviscerato. Melog, cronache meridiane. Io racconto la storia di mio zio, di cui porto il nome. Anche lui deportato dopo l'8 settembre, era a distanza a Ragusa, Dubrovnik, ed era un carabiniere, portato in vari lager dell'Austria vicino Vienna, Kaiser Steinbruck, Wegeldorf, Bergassing, eccetera, eccetera. Niente, rimase là fino al 31 marzo del 1945, quando arrivarono i russi. E anche lui, durante la prigionia... Do il numero di telefono per quanti possono questa mattina lasciarci una telefonata, cominciando a chiamare, se vogliono, registriamo le loro telefonate, per darci, anche nei giorni a seguire, testimonianza diretta, se hanno avuto dei parenti, delle persone che conoscono, un padre, un parente prossimo, che appartiene alla grande famiglia degli internati militari italiani. Perché? Perché dopo averne parlato in più puntate, dopo aver raccolto molte testimonianze, le facciamo sentire, questi sono genitori, sono figli, parenti, internati stessi, ci hanno chiamato via via nel tempo chiedendoci di parlarne ancora, perché è un rimosso che è durato decenni, nessuno ha voluto parlare, si sono chiusi, come ci ha detto la persona con cui ci siamo congedati pochi minuti fa, in un silenzio pudibondo, hanno preferito non affrontare quel muro di ipocrita indifferenza dei loro stessi connazionali, che avrei voluto perlomeno acclamarli, ringraziarli, essere loro grati della testimonianza che hanno portato, rimanendo fedeli comunque a quello che era il loro mandato. Questo non è avvenuto, ma oggi ne parliamo ancora una volta, perché oggi finalmente si comincia a parlare di un museo della memoria per gli internati militari italiani. È stato presentato proprio poche ore fa nella sala stampa estera questo progetto, e ne parleremo. Però adesso vorrei sentire Mauro Avagliano. Mauro Avagliano, buongiorno. Mario Avagliano, scusami. Prego. Mauro Avagliano è un giornalista, storico, saggista, autore insieme a Marco Palmieri del volume Gli internati militari italiani, diari, lettere dai lager nazisti 43-45, Einaudi del 2009. Dal 2009 oggi, Mario, vi siamo sentiti anche altre volte, sono emerse altre circostanze per valutare meglio questa sorta di grosso paradosso. Abbiamo sentito la testimonianza poco fa dell'internato, che dice: siamo tornati, abbiamo visto l'aria, abbiamo preferito stare zitti. Una sorta di mandato e sono dati anche senza dirselo. Si sono chiusi nel loro silenzio. E oggi costruire un museo della memoria su un fatto che è stato sigillato nel silenzio dei protagonisti non è molto facile. Non è facile. Speriamo anche con il libro che uscì nel 2009, che poi ci ha portato in giro per l'Italia a parlare di questo tema e ha un po' stimolato di nuovo la discussione su questo tema. Siete stati i primi o due, diciamo, a scrivere concretamente e diffusamente su questa cosa? Beh, c'erano stati due storici tedeschi che ne avevano scritto. Ma nel nostro paese no, mai. Ma nel nostro paese un'opera complessiva sugli internati militari mancava. Ecco, mi dici una cosa, scusa, perché voglio capire bene, a me interessa lo spirito generale. Quando andavate a presentare nel 2009 questo libro, qual era l'atteggiamento generale di chi vi accoglieva o doveva accogliervi a presentare il libro? Di sorpresa, perché tantissimi, la maggior parte, non conosceva assolutamente questa storia. Un aneddoto su tutti: in un comune dell'Emilia Romagna, dove andammo a presentare questo libro, un sindaco venne a fare il saluto iniziale, si mise a piangere dalla commozione, perché proprio quella mattina la madre, quando lui gli aveva detto che andava a presentare un libro sugli internati militari, gli aveva detto che il padre era un internato militare. Ecco, ti rendi conto com'era potente questo suggello che sono dati di non parlarne con le famiglie? Il figlio lo sa decenni dopo, perché la madre lo dice piangendo, il giorno va a parlare di un libro che parla di una vicenda del padre che lui ignorava totalmente. Ti rendi come si fa a ignorare una vicenda così drammatica al proprio padre per tutta la vita? È una cosa davvero incredibile. Probabilmente gli IMI sono risultati, oltre che ignorati, scomodi un po' a tutte le componenti politiche, culturali e istituzionali del nuovo arco costituzionale. Perché eh sì, perché nessuno può rivendicarli come loro. Le forze della resistenza non volevano condividere con loro il monopolio perché erano della stati, memoria. Certo, chiaro. No? E poi la cultura politica della sinistra vedeva in loro i rappresentanti delle guerre fasciste. Comunque militari dell'esercito del re, quindi. Certo. E invece gli internati militari, con la loro scelta, fra l'altro l'estrema destra, figuriamoci, i traditori Badogliani, peggio che no, beh, meno cioè, Badogliani, c'è un no, ministro di uno dei governi recenti della Repubblica che viene da quella storia e che ha definito gli internati militari come imboscati. E quindi il ministro che si è tagliato la barba la Russia. Davanti a me. E quindi vabbè, avrà modo di correggere il proprio punto di vista, andrà a visitare il vostro museo, si renderà conto gente che ha sofferto, che ha fatto il lager, quindi è un po' difficile chiamarli imboscati. Io vorrei però capire meglio di cosa si tratta proprio nell'aspetto costruttivo. Dottoressa Eva Pietroni, la ricercatrice dell'Istituto per le Tecnologie Applicate e Beni Culturali del CNR, lei ha ideato il progetto proprio di creare un museo con dei percorsi multimediali in questa storia che secondo me non ha precedenti nella sua irrazionale maniera di come può essere raccontata. Ripeto anche a lei, come fa a digitalizzare una storia che i protagonisti hanno giurato a se stessi non raccontare nemmeno ai figli? Sì, intanto buongiorno a tutti e a voi ai radioascoltatori. Dunque, io posso dire, siamo stati contattati come Consiglio Nazionale delle Ricerche circa un anno fa, un po' più di un anno fa, dall'Associazione Nazionale dei Reduci della Prigionia e dal presidente Enzo Orlanducci, che è una persona veramente appassionata. Ma ci racconti come l'ha costruito questo, come l'ha progettato? Questa è la cosa che mancano veramente pochi minuti. Allora, sì, certo. Allora, l'idea è innanzitutto di creare un museo di memorialistica o di cimeli, come spesso accade insomma per musei che affrontano questo tipo di tematiche, ma un museo che adotta i linguaggi della modernità, della multimedialità e che si rivolga quindi soprattutto ad un pubblico di persone giovani. E stiamo parlando di accadimenti storici che sono molto vicini a noi dal punto di vista temporale, ma di cui, come abbiamo sentito, si è persa la memoria. Io penso che nemmeno in molti libri di storia ci siano citati, ne parlammo nella trasmissione, cioè nella storiografia ufficiale, nelle scuole, esatto, sono appena accennati, quindi gli studenti potranno ampliare quello che i testi. E quindi sarà molto, diciamo, incentivato l'aspetto tecnologico, l'aspetto multimediale, la condivisione. Allora, sì, diciamo, utilizzare la tecnologia in realtà per creare un percorso multisensoriale, immersivo ed emozionale dal punto di vista narrativo, e fare in modo che l'utente non sia semplicemente un visitatore che si aggira tra le sale, legge dei pannelli. Ecco, i tempi quali sono? La sigla ci porta, quanto ci vorrà perché potremmo vedere questo museo realizzato? Ma speriamo che i lavori di adattamento dei locali possano partire il prima possibile, so che appunto, diciamo, si stavano risolvendo tutta una serie di questioni per cui dovrebbero partire lavori di ristrutturazione e adattamento dei locali, e quindi da lì si cominciano a realizzare vari supporti multimediali. Grazie a te, Sara Petroni. Noi siamo un paese molto legato agli aspetti tradizionali, prima dovranno passare i muratori, poi forse entreranno in ballo i progettisti, gli ingegneri, i realizzatori dell'aspetto multimediale condivisibile. Grazie a tutti, alla prossima.